Letture di Radio 24. Se prendiamo in considerazione il tempo che gli automobilisti sono costretti a trascorrere immobili perché bloccati nel traffico, Milano batte tutti, 52 ore l'anno. Ma a Londra stanno peggio, con oltre 100 ore annue di soste forzate. Anche se loro possono perlomeno contare su una valida alternativa, mezzi di trasporto pubblico super efficienti, cosa che noi non possiamo nemmeno permetterci di sognare. Secondo un report di INRIX, società che si occupa di analisi della mobilità e tecnologie, nel 2015 molti di noi hanno trascorso intere giornate e notti immobili, infilati in un ingorgo. Milano è la città dove ogni anno, tra stop and go e pause inspiegabili, si perdono in media 52 ore l'anno. Il secondo posto degli automobilisti più infelici d'Italia abita o passa per Cagliari, dove l'attesa dell'arrivo consuma solo 26 ore. E Roma, la capitale dell'intasamento, dell'ingorgo perenne, degli scioperi e delle manifestazioni che bloccano la città e dove le multe sono un record nazionale. Come sta messa? Malino, ma non malissimo. È soltanto terza per traffico, con i cittadini che perdono 24 ore immobili in auto. Il perché di questo risultato, a sorpresa, è interessante e lo spiegano gli stessi dirigenti votati all'Hi-Tech di INRIX. Ben 12 delle 20 strade più congestionate d'Italia si trovano nell'area di Milano, dove i volumi di traffico sono molto intensi. Tutta colpa di quei 17,24 km della A4, dell'allacciamento con la A8 e della tangenziale nord. Meglio starne alla larga da quelle maledette strade, dove delle 52 ore complessive i milanesi ne hanno trascorse 38 bloccati. E che dire di quei torinesi che passano su alcuni tratti della A5 una quindicina di ore all'anno? La pubblicazione dei tempi di percorrenza in tempo reale è un processo completamente automatizzato, spiegano da INRIX. Noi pubblichiamo un valore di velocità insieme a ogni sezione della rete stradale minuto per minuto, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Questi valori sono calcolati a partire dai dati di velocità grezzi ottenuti da diverse fonti, come compagnie di gestione delle flotte, fonti telematiche, produttori di dispositivi GPS e navigatori satellitari o i dati delle auto connesse. Per generare i dati della ricerca, quindi, tutte queste velocità di spostamento durante i periodi di picco sono state analizzate e comparate con le velocità in condizioni di non congestionamento. Non resta dunque che pensare positivo. E se il detto mal comune mezzo gaudio può aiutare, meglio evidenziare il caos calmo di Londra, dove la leggendaria pazienza e dedizione al sacrificio dei britannici aiutano a sopportare il peso delle soste forzate di milioni di automobilisti della capitale britannica col piede sul freno per 101 ore all'anno, il doppio di Milano. 4 giorni e 4 notti. Alle nostre città, tutto sommato, poteva andare molto peggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lucio Cillis, Bloccati in auto 52 ore l'anno. Milano, peggio di Roma, dal venerdì di Repubblica dell'1 aprile. Letture di Radio 24. Da tempo il giornalista della Gazzetta dello Sport Roberto Pelucchi riceve minacce da parte di un gruppo di tifosi dell'Atalanta che non gradiscono i suoi articoli su scandali e scommesse. Quando gli insulti si sono fatti un po' troppo pesanti, li ha denunciati, ma il giudice li ha assolti perché in ambito sportivo un insulto generico ci può stare. Ecco cosa scrive Massimo Gramellini a proposito di insulti generici sulla Stampa del 5 aprile. Siete di quelli che ancora pensano che dare a qualcuno dell'uomo o della donna di M sia infamia meritevole di querela? Retrogradi. Roberto Pelucchi, giornalista sportivo afflitto da evidente permalosità, si è permesso di denunciare dei galantuomini che sul sito atalantini.com lo avevano definito infame, bastardo e uomo di M. Ma il giudice di Bergamo, perché c'è un giudice a Bergamo, ha rigettato la richiesta con poche ma definitive parole. In ambito sportivo, un insulto generico ci può anche stare. Un insulto specifico, no, nemmeno lì. Ma un insulto generico, nel ruttodromo del calcio, fa quasi simpatia. Specie se lanciato da ultra che si nascondono dietro nomi di facciata. Un accorgimento, scrive il giudice, che toglie carica all'insulto rispetto alle offese fatte con nome e cognome. Se dunque vi assale la voglia di mandare genericamente a stendere qualcuno, non frenate l'istinto. Riempitelo pure di M, purché a volto coperto e senza declinare le vostre generalità. Va inoltre considerato che il Pelucchi era intervenuto su quel sito per difendere un suo articolo. Decisione che il giudice considera quantomeno imprudente. Chi si mette a correre per strada durante la festa di Pamplona non può lamentarsi più di tanto se qualche toro finisce per incornarlo. Che sarebbe un consiglio saggio se provenisse dal gargarozzo di una vecchia zia. Mentre chi parla è uno che in teoria dovrebbe fare rispettare le leggi. Invece sta dicendo che quando vieni rapinato in un vicolo buio a mezzanotte, non solo il reato non esiste, ma se lo denunci sei pure un po' coglione. Insulto generico. E queste erano le parole di Massimo Gramellini dalla stampa del 5 aprile. Ecco cosa scrive invece il giorno successivo Andrea Monti, direttore della Gazzetta. In quella camera d'aria gonfia di insulti, miasmi e personaggi bizzarri che è diventato il nostro calcio, venerdì 1 aprile ha fatto irruzione pure un giudice del Tribunale di Bergamo, conquistando un posto di rilievo nella speciale classifica di chi la spara più grossa. Il GIP Tino Palestra, evidentemente un tipo atletico, è un vero capocannoniere della parola in libertà e va adeguatamente celebrato perché il podio se l'è guadagnato a spese di un collega che i lettori della Gazzetta conoscono e stimano. La storia, sinora taciuta su queste colonne per carità di patria, è stata rivelata magistralmente da Massimo Gramellini sulla stampa. Ora possiamo raccontarla senza sembrare autoreferenziali o, peggio, piagnoni. Va come segue. Il nostro Roberto Pelucchi subisce da anni minacce e pubblici insulti da una parte degli ultra atalantini per aver scritto di scandali e scommesse, dell'intoccabile Doni e dei processi che lo inseguono. Lui li denuncia e i magistrati bergamassi regolarmente archiviano, dimenticano o assolvono. Ultimo episodio in ordine di tempo. Il nostro spedisce una precisazione al sito ufficiale del tifo atalantino, diciamo così moderato, e si becca una gragnuola di ingiurie dagli ultra che nei commenti lo definiscono simpaticamente uomo di merda, nuovo esposto. Pelucchi è un tipo suscettibile, dirà qualcuno. O forse si è solo rotto i cabasisi. Oppure vorrebbe dallo Stato un po' di tutela, chissà. Comunque, la partita è risolta dall'ineffabile Palestra, che con un'ordinanza fulminante archivia il procedimento. Niente da dire, è nei suoi poteri. Le sentenze si accettano, non si discutono, a meno che non contengano commenti strampalati. E qui, caro Palestra, entra in scena quello stupendo esercizio ginnico che è la libertà di stampa ed opinione. Dunque, vediamo. In apertura di gioco, nelle prime righe dell'ordinanza, lei scrive di tale Roberto Pelucchi. Tale, per la giustizia, non dovrebbe essere nessuno. Tale non è neppure un tizio sconosciuto e senza fissa dimora. Signor Pelucchi, signor Palestra, signor Monti, se proprio non si vuol riconoscere il titolo accademico. Meglio, no? Poi procede spiegando che uomo di merda, perdonate il turpiloquio reiterato, è un epiteto che deve ricondursi quantitativamente entro i limiti della particolare tenuità. Trattandosi con ogni evidenza di questioni legate all'intestino tenue, quanta materia ignobile deve prendersi in testa un malcapitato per superare la soglia del penale? Impavido, il GIP ci fornisce una risposta. In ambito sportivo, un insulto generico ci può anche stare. Quindi negro, finocchio o figlio di mignotta gli suonerebbero più specifici? Ma no, non avete capito. Il fatto è che, come scrive nella sentenza, la provenienza ignota attraverso nickname più o meno plausibili non aggiunge ma toglie carica rispetto alle offese che hanno nome e cognome di chi le manifesta. Quindi, se proprio dovete violare la legge, fatelo a volto coperto, che è meno grave. E infatti rapinatori e terroristi proprio per questo si calano il passamontagna. Giuro che sinora non ho inventato nulla, ma il bello viene adesso. Un gol partita in rovesciata. Sì, perché secondo Palestra tutto nasce da, scrive sempre il giudice, un intervento che il Pelucchi aveva imprudentemente ritenuto di fare sullo stesso sito, mettendosi così nelle condizioni di chi si mette a correre per strada durante la festa di Pamplona e non può lamentarsi più di tanto se qualche toro finisce per incornarlo. Lui, quel gran cornuto di Pelucchi. No, caro giudice, non regge proprio. Mia o sua zia possono dire «te la sei cercata». Un magistrato dovrebbe cercare altro, magari il senso delle cose, i precedenti, gli striscioni allo stadio Pelucchi infame, per esempio, o il rispetto delle leggi anche quando la quantità di escrementi è modica o tenue, ma dovrebbe soprattutto evitare ordinanze di coloritura futurista, nel senso letterario del termine, naturalmente, che certo sarebbero piaciute a Marinetti, ma a noi un po' meno. Parole libere, le definiva il poeta. Manate di parole essenziali senza alcun ordine convenzionale, unica preoccupazione del narratore, rendere tutte le vibrazioni del suo io. E questo era l'articolo di Andrea Monti, il cronista e il giudice futurista, i tifosi dell'Atalanta e gli insulti a Pelucchi, dalla Gazzetta dello Sport del 6 aprile. I ricercatori dei laboratori HRL in California sostengono di aver inventato una tecnologia che permette di caricare informazioni direttamente nel nostro cervello. Un po' come avveniva nel film Matrix del 1999, dove il protagonista Neo riusciva ad imparare il Kung Fu in pochi secondi grazie alle informazioni che gli erano state downloadate. Come raccontava Mark Molloy in un articolo pubblicato il mese scorso sul Telegraph, i ricercatori dell'HRL hanno studiato i segnali elettrici nel cervello di un pilota esperto e hanno quindi trasferito i dati in alcuni principianti che stavano cercando di pilotare un aereo tramite un simulatore di volo. Il risultato era che i soggetti che avevano ricevuto una stimolazione cerebrale tramite caschi dotati di elettrodi miglioravano le loro abilità di pilotaggio e imparavano il loro compito con il 33% di efficienza in più rispetto a un gruppo sottoposto ad effetto placebo. Il dottor Matthew Phillips, a capo del team che ha condotto l'esperimento, è convinto che la simulazione cerebrale potrebbe rivelarsi utile in compiti come imparare a guidare, preparare un esame o studiare le lingue. Ma tutto questo, alla fine, ci renderà più liberi? Si domanda Oscar Di Montigny in un editoriale pubblicato la settimana scorsa su Panorama. Crediamo veramente possibile la creazione in laboratorio di un qualcosa di artificiale che avrebbe invece la sua naturale dimora nella nostra mente e nel nostro cuore? Un uomo potrà mai inventare una tecnologia che gli consentirà di essere ciò che lui non è stato capace di diventare? Non è forse un insostenibile paradosso quello di immaginare uomini, solo superficialmente coscienti, capaci di inventare una tecnologia che consenta loro di downloadare nella propria mente più profondi stati di coscienza che da soli non sono invece stati capaci di raggiungere? Queste sono domande centrali per il futuro della nostra specie. Lo dico perché quotidianamente mi domando se l'aumentare della diffusione di determinate tecnologie ci consentirà effettivamente più autonomia personale e maggiore energia per poter coltivare anche i nostri valori più reconditi e profondi e, perché no, spirituali, aiutando veramente l'intera umanità a evolvere. A cosa ci serve infatti la genialità se poi non usiamo questo dono divino per il bene dell'insieme? Arriveremo a individuare delle tecnologie anche per l'indagine della dimensione interiore dell'uomo, l'unica veramente necessaria al miglioramento della qualità della nostra vita? La ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto tra la ricerca interiore e la gestione dell'indagine esteriore è la nuova frontiera dell'indagine dell'uomo, la vera sfida di questo nuovo millennio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'editoriale di Oscar Di Montigny? Rischiamo di delegare alle macchine anche la nostra coscienza, da Panorama del 6 aprile.